brutal. Encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi mi piacerebbe parlare di arte, soprattutto di arte contemporanea, senza averne una specifica competenza, lo dico subito. Sono già troppi gli improvvisati, già ho visto il burinume a frotte, fare fila per vedere il nuovo capolavoro d'Archistar a Roma, il Maxi. Il luogo è da senz'altro emozione, ma quando il luogo come opera d'arte è collettivamente modaiola, si sovrappone poi all'arte cadente, cosa accade? Questa è una riflessione che faceva Stefano Bartezzaghi su R2 qualche giorno fa. La nascita, l'idea della creazione di grandi luoghi destinati a contenere opere d'arte, ma così fortemente caricati di suggestione, di estatica attesa, proprio perché firmati da grandissimi architetti, perché pubblicizzati, perché al centro di percorsi iper trasmessi da tutti i mezzi di comunicazione possibili, dal passaparola delle persone che contano, dall'idea che comunque sia necessario essere contaminati, passare in questi luoghi come se fossero dei santuari attraverso cui si passa per ottenere una grazia, per avere un'indulgenza. Generazioni di romani che si sono avvicendati a ginocchioni sulla Scala Santa adesso fanno la fila per andare a vedere il Maxi o il Macro Future o altre tantissime operazioni che in sé sono senz'altro positive. Che la gente vada a vedere qualcosa che richiama il concetto dell'arte piuttosto che vada a vedere soltanto grandi eventi sportivi, lo trovo abbastanza positivo, perché a me piace tutto ciò che è astrazione, tutto ciò che fugge dal mero e puro divertimento, non finalizzato a farsi un'idea, a farsi un'opinione, a cercare di scrutare ciò che è oltre l'apparenza. Ma in realtà l'idea dell'arte contemporanea è un'idea che sembra essere lievemente logorata dall'abuso che ne è stato fatto, e in questa ultimissima fase non è più nemmeno un concetto elitario, conteso, difeso e protetto da un'elite di persone che poi attribuiscono il valore di opera d'arte a tanti fenomeni contemporanei, ma è diventato un fenomeno popolare. Beh, su questa mattina vorrei con voi interrogarmi: qual è la vostra percezione dell'arte contemporanea? Io personalmente considero opera d'arte ciò che mi fa emozionare. Laddove mi emoziono, trovo un'opera d'arte. Mi emoziono di fronte a un manufatto umano con un intento di oggetto da interpretare, non semplicemente un prodotto dell'artigianato, un prodotto dell'industria. Può ulteriormente emozionarmi, ma non è un'opera d'arte. L'opera d'arte è un concetto con dei canoni ben definiti che vorrebbero rappresentarlo come opera d'arte, che riesce a darmi delle emozioni. Questo per me, nella mia semplicistica lettura, è l'opera d'arte. Ma probabilmente nelle tante persone che hanno affollato i grandi luoghi di diffusione dell'arte popolare, in questi giorni ci saranno altri tipi di letture. E vorrei saperle questa mattina, e chiamando all'800 24 0024 mi darete un corroborante contributo. Per fornirne poi subito dopo il sorpasso. Ma che dice quello? Che dice? Spiega. Spiega. Nell'erigerla. Le cose che noi non potremmo capire. Che è buona mela, re? No, non fa ste cose. E non se famo riconoscere a tutti, a Ma che so? So imbuti, ne vedi? Pure io li metto così quando spiccia la cucina. Sì. Ma che cazzo c'entra la cucina? Agù, è una scultura questa, stiamo a Biennale, pure lei mette così. L'indimenticabile Vacanza intelligente di Alberto Sordi e la sua moglie Sbombardona, i cui figli evoluti culturalmente rispetto alla prima generazione di Salumà e genitori, hanno detto: dovete fare le vacanze intelligenti, e li mandano alla Biennale. Naturalmente non capisco nulla, non comprendo nulla, ammesso ci sia qualcosa da capire, qualcosa da comprendere. A un certo punto la moglie si abbiocca su una sedia e naturalmente cominciano a fotografarla pensando che sia ella stessa una rappresentazione, un'opera d'arte concettuale. Questo dà un po' il metro di quello che sta probabilmente accadendo e quello di cui cercheremo questa mattina di approfondire e di riflettere con Francesco Bonami. Bonami, buongiorno. Buongiorno. Bonami è un critico e curatore di arte contemporanea, ha scritto vari libri, tra cui Si crede Picasso, come distinguere un vero artista contemporaneo da uno che non lo è, Mondadori 2010. Lo potevo fare anch'io perché l'arte contemporanea è davvero arte, Mondadori 2007. In questi due titoli già hai riassunto quello che è il pensiero inespresso, il peccato di autocommiserazione che fanno molte persone ma non hanno coraggio di ammetterlo più. Potevo farlo anch'io. Di fronte a opere d'arte che in sé sembrano dei semplici e banalissimi manufatti caricati soltanto dall'enfasi e dall'emotività e dal circuito che li promuove, molti si fanno questa domanda. Ma è lecito farsela, Bonami? Beh sì, certo, è assolutamente lecito farsi questa domanda, anche perché davanti all'arte contemporanea, che non ha il vantaggio della storia, la distanza dalla storia che noi che abbiamo con l'arte antica, appunto il dubbio viene che a volte non sia arte e a volte magari non lo è, oppure non lo sarà, lo è in questo momento ma non continuerà ad esserlo in futuro. Gli imbuti di Alberto Sordi magari non sono più opera d'arte oggi. E che cos'è l'arte? L'arte è un esperimento e alcuni esperimenti riescono e rimangono al tempo, altri invece sono esperimenti che ci fanno magari pensare a certe cose, però poi svaniscono e non sono più non hanno più il peso di c'è un concetto che ha sdoganato gran parte della cosiddetta arte contemporanea, la provocazione. Ecco, sì, la provocazione secondo me non è un elemento che rende un'opera d'arte bella o bello o brutto, è un po' difficile dirlo, ma so che un'opera d'arte che abbia un peso e che possa dire sempre qualcosa. La provocazione è un elemento che va unito a tante altre cose. La provocazione solo per la provocazione termina lì. Se io mi metto in una stanza e mi tiro giù i pantaloni è una provocazione, ma non è una performance o un'opera d'arte, no? Però se io lo faccio e in un modo, e non so come, porta lo spettatore ad attraversare una soglia diversa da quella della vita quotidiana, da quella di vedere soltanto uno che fa l'esibizionista, può darsi che quello diventi una performance d'arte, un momento particolare nella vita. Io credo che è importante per un artista è riuscire a trascinare lo spettatore anche momentaneamente in un mondo diverso. Quindi ecco, la mia banale percezione dell'arte, che è arte ciò che mi emoziona in un contesto naturalmente di rappresentazione artistica, mi può emozionare anche un arrotino che arrota un coltello, ma diciamo chi si pone come artista, chi ha un percorso artistico, chi ha una storia di artista vero, reale, presunto, pubblicato o semplicemente promosso nelle terrazze di Roma, se mi emoziona, almeno per me individualmente, ci sono buone possibilità che quella sia un'opera d'arte. È corretto secondo lei? Sì, sì, è corretto. Se vogliamo prendere sempre l'esempio degli imbuti, ma anche delle bottiglie, pensiamo al pittore bolognese Morandi, no? Che ha dipinto tutta la vita Nature morte, bottiglie, certo. E uno potrebbe dire è banalissimo dipingere bottiglie, eppure lui lo faceva in un modo in cui noi quando guardiamo le sue bottiglie non pensiamo alla bottiglia di casa, no? Ma pensiamo a delle forme strane, a delle forme astratte, alla bottiglia diciamo primordiale, no? Io penso alle bottiglie che ho seppellito nella mia vita, una grande tristezza, ognuno può accedere quello che vuole. Sì, appunto, cioè che ci portano anche a un dato biografico magari, oppure ci fanno pensare anche alla noia. Anche quindi è quell'interruttore fatale che riesce a smuovere tutto ciò che abbiamo di percezione poetica dell'esistenza dentro di noi, che altrimenti senza il contatto con quell'opera sarebbe soffocato, non ci accorgeremmo che esiste. Esatto, mentre invece ci sono altri che dipingono bottiglie, magari le dipingono anche in modo molto più realista e tecnicamente più preciso di quello che lo facciamo Randi, eppure non ci fanno fare questo scatto, no? Sentiamo qualche ascoltatore, vediamo un po' se riusciamo a farci corroborare poi dal giudizio di chi ci sta ascoltando. Antonio, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti, mi chiamo da Giuliano, Napoli. Devo dire una mia impressione personale, insomma, ho l'impressione da quando ho visitato queste mostre contemporanee che ormai la ricerca dell'arte sembra indirizzata solo a ciò che è eccentrico, sensazionale o strabiliante, in partenza per esempio quel fatto, mi scusi, che addirittura l'espressione, ma è della grande artista, la merda nella scatola, insomma sembra, sì, è una cosa un po' passata, però è un po' datata, l'operazione di Manzoni, ma è passata un pochino, è andato avanti così, perché io ricordo che in un piccolo viaggio a Venezia mia moglie si scansava pensando che ci fosse una specie di traliccio che le stava venendo addosso, invece quella era una delle opere esterne alla Biennale. Io penso che tra il disorientamento di oggi in tanti campi c'è anche questo, insomma il mio conterraneo, voglio citarlo, Giambattista Vico aveva ragione, ci sono anche ricorsi negativi nella storia dell'uomo. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dottor Nicoletti, vorrei dire la mia sull'arte. La sto ascoltando. Sì, io qui 10 anni fa sul Corriere della Sera trovai una poesia del giornalista Giuliano Zincone. La poesia si chiama Il prosciutto. Questo rispecchia il discorso artistico. Vabbè, ma è che... gliela leggo subito, però veloce, non è lunga. Sì, ma scritta Zincone, mica lei, io voglio sapere il suo giudizio. Il mio giudizio è uguale a quello di Zincone. Quindi lei ha abbracciato lo Zincone pensiero per tutta la sua vita, questo è il suo concetto di arte. Lo so, ma trovo molto poco artistico e poco poetico questo suo tratto, quindi ahimè non gliela farò leggere la poesia perché mi ammorberebbe la mattina. Cristiano. Ciao Gianluca. A me l'arte contemporanea, devo dirti da matti, sembra un grande tourbillon, un giocattolaio enorme. Quindi secondo te fa parte della ricerca e dell'effetto dell'opera d'arte creare anche questo effetto sociale, questa sorta di turbinio? Il problema viene adesso, infatti stavo all'Eur l'altro giorno, arrivavo e ho trovato quel gigante, quell'opera d'arte fichissima, che quel gigante sotterrato che sta all'Eur. Sono arrivato e ho detto che figata, guarda, stavo con la mia ragazza, guarda che figata pazzesca, un gigante sotterrato. L'impressione è stata enorme, eravamo sorpresissimi. Il problema è che poi, dopo un po', l'impressione di quell'opera d'arte è andata scemando sempre di più fino a lasciare una desolazione, un deserto interiore che l'opera d'arte non dovrebbe lasciare. Fatto il paragone poi con le altre grandi opere d'arte del Rinascimento, quelle più famose, quelle più importanti, e invece rimane sempre un'intensità, qualcosa di bello rimane dentro. Di fronte all'opera d'arte contemporanea rimane grandissimo divertimento, grandissima impressione, però poi a lunga scadenza nella tua vita non è che dentro rimanga così tanto, ecco. Quindi non le lascia una traccia lunga, un'emozione lunga. No, non tanto. Sì, non Francesco tanto, Bonami, no. Su questo primo passaggio di telefonate. Quella di Giambattista Vico, sì, certo, ci sono dei momenti negativi nella storia, ci sono sempre stati. Ora noi abbiamo il lusso, quando andiamo, non so, agli Uffizi, ai grandi musei, alla Pinacoteca di Brera, di vedere la scrematura di quello che noi abbiamo, delle grandi opere d'arte. Però durante quel periodo ci sono state anche artisti che facevano cose che minori, mediocri, che noi sono lì nelle gallerie, che noi non guardiamo nemmeno e non ci lasciano nessun tipo di emozione. Quindi la celebrazione e la pubblicazione di un'opera d'arte, la diffusione nell'immaginario comune aumenta il pathos che dà l'opera d'arte? Assolutamente, secondo me quando noi ci troviamo davanti, prendiamo l'esempio più classico, forse più banale, la Gioconda, dico, noi non mettiamo in dubbio che sia una bella opera d'arte, non diamo nessun giudizio, ci siamo assolutamente in estasi davanti a quella cosa che ci hanno detto, ci hanno raccontato, ci hanno insegnato, è uno dei capolavori della storia dell'arte. Il nostro giudizio non è più personale, è un giudizio che è diretto da tante informazioni che hanno modellato la nostra capacità di dare una opinione personale. Quindi singoli momenti estatici dei milioni di spettatori di quest'opera d'arte già andati lì, perché c'è un circuito che porta a far coincidere alcune linee, alcune vie di fuga, che quella sia un'opera d'arte, aumenta e rafforza ogni giorno il valore dell'opera d'arte. Quindi arte sarà soltanto ciò che ha celebrato. Beh, non è soltanto quello che è celebrato, siamo sinceri, siamo spinti tutti in una direzione piuttosto che un'altra, non è soltanto quella che è celebrata. Io, quello che diceva il signore prima, del gigante che poi lascia poco, ecco, sì, forse non è una grande opera d'arte se lascia poco. Credo che le grandi, le vere grandi opere d'arte sono quelle che noi che può essere un film, che può essere una fotografia, che può essere un pezzo di musica, sono quelle che noi ci portiamo dentro e ci ricordiamo, e che ci ricordiamo legate a certi eventi personali, ma ci ricordiamo anche in modo astratto. Quindi quelle sono forse le grandi opere d'arte che continuano a essere con noi, che continuano a dirci qualcosa di nuovo ogni volta che le guardiamo, ogni volta che pensiamo a quelle cose lì, mentre altre sono opere d'arte che forse visivamente ci colpiscono, ci meravigliano, però poi sfumano nella... Ma questo vale per tutte le cose, anche i film, no? Ci sono quei grandi film che ci divertono o ci piacciono per le due ore che ci sono, però non ci pensiamo più. Ci sono altri film, che pensiamo a Casablanca, che noi possiamo forse rivedere tantissime volte e non annoiarsi mai. Beh, pensi, io mi sono preso il DVD di Avatar, che è uno dei film che è stato più celebrato negli ultimi 3-4 mesi, anche io sono andato a vederlo, rimasi piuttosto deluso. E rivedendolo mi rendo conto che ormai aveva già fatto il suo tempo. Finita la campagna di promozione, di esaltazione, contaminazione di desiderio tra tutti noi spettatori, Avatar era un filmettino come tanti altri che sicuramente non passerà alla storia del cinema. Sentiamo Marco. Marco. Da Roma, Marco, sì. Buongiorno. Dunque, io mi sono permesso di pensare qualche piccolo trucchetto per scovare l'arte e definirla. Allora, io sono questi. Dunque, prima di tutto, quanto tempo ci impiega l'autore? Questo è un buon indice. Poi, quanto l'artista nel creare l'opera l'artista, d'arte? Sì, sì. Quanto tempo impiega? Quindi, dall'ideazione alla preparazione, esatto, alla realizzazione. Esatto. Quanto è difficile farlo? Cioè, quanto io e te non potremmo farlo, per esempio, perché lui ha una sua tecnica, una sua esperienza, una sua cultura specifica. Quante persone ignoranti riesce a emozionare? Cioè, ignoranti intendo che non sanno nulla di lui, del suo percorso, del perché è arrivato lì. Senza una struttura esatto, storico informata sul percorso, esatto, dell'artista, sulla scuola in cui si muove, il contesto e via. Assolutamente, e deve essere veramente uno molto bravo se riesce a rompere, quindi a creare una rottura parlando un linguaggio che la gente ancora non... Quella è un'irruzione fulminea e sconvolgente nella, sì, vita di persone che non hanno nessuna attitudine a interpretare, a leggere, a vedere, o nessuna sensibilità nel cercare l'arte. Esatto, anche perché io da piccolino ero nel mondo dell'arte, quindi ci stavo dentro fino al collo e selezionavo così ciò che per me era arte e ciò che per me non lo era. Mi sembra molto, molto interessante quello che dice Marco. Melog 2.0. Credo veramente che l'architettura contemporanea consista nel giusto abbinamento con l'antico. Mentre l'architettura moderna si occupava di demolire tutto e costruire il nuovo, oggi il vero lavoro è saper armonizzare tutti i vari periodi storici, e ciò si può fare in ogni città. Questa, come ho sempre pensato e detto, è un'archiscultura orgogliosa dei propri volumi interni, che stimola soluzioni espositive, che sintetizza dentro di sé anche la storia dell'architettura, dal barocco al futurismo, in un contesto come la città di Roma, che è per eccellenza un grande museo all'aperto. Non mi piace il museo d'arte contemporanea che non vuole le opere d'arte contemporanea. Quindi questo è il museo di se stesso, è un monumento, è un mausoleo di Zadid. Come mausoleo è straordinario, ma è come se le opere d'arte lo disturbassero. Qualunque cosa disturberà. Lasciarlo vuoto costerà anche meno, lasciarlo vuoto. Uno viene a visita d'altra parte, però devo dire che la mia non è una malignità, è una lettura che, attraverso vari punti di vista, riassunto quello che stiamo cercando di dire. Io penso che questo fosse un'intervista al TG1 presa al momento dell'inaugurazione del Maxi, in cui parla l'Archistar, parla Bonito Oliva, la cui transavanguardia poca traccia lasciò nella nostra emozione, parla Sgarbi, polemista per eccellenza, però conferma quello che noi diciamo. Hanno creato un grande mausoleo e il mausoleo viene visitato in quanto sacrario, non tanto per ciò che contiene. Il mausoleo di solito contiene ceneri, contiene vestigia del passato. È difficile trovare un punto d'incontro, ma il punto, secondo me, positivo è che si parli di arte, se ne parla in maniera probabilmente del tutto svuotata del concetto di emozione artistica, come dice Emanuele su Facebook, dice che l'arte trasmissione trasmissione di contenuto attraverso simboli. L'arte contemporanea, se è concettuale, esprime messaggi tramite concetti. Quindi se sono concetti non è arte. Si mandino sms, si mandino email, si mandino missive, lettere, se uno ha dei concetti. L'arte deve essere fulminante, a questa visione dell'arte come porta aperta fra una realtà sensibile, condivisa, e una realtà altra. L'opera d'arte apre. Ma in realtà l'arte concettuale per tanti anni ha dato questa idea, come la moglie di Alberto Sordi. Nel museo ci sono state esposizioni di personaggi, hanno esposto anche un mongoloide in una, il termine crudo, ma così veniva nominato, in una mostra d'arte. Hanno forme di pop art, sono una signora grassissima con il carrello della spesa, visione che vediamo tutti i giorni, entra in un museo, diventa un'opera d'arte. Tutta ogni nostra operazione quotidiana può diventare un'opera d'arte. L'arte è realmente questo. L'arte risponde, come diceva il nostro ascoltatore prima, ad alcuni concetti ben precisi. Quindi abbiamo in collegamento con noi Francesco Bonami, che è critico d'arte, ha scritto vari libri proprio sulla l'ambiguità dell'interpretazione dell'opera d'arte. Lei cosa ne dice, Bonami, rispetto ai principi che aveva enumerato il nostro ascoltatore per cercare di orientarsi tra l'opera d'arte e la cialtronata, che non lascerà nulla nella storia? Non è semplicissimo, però lui metteva due elementi: quanto tempo ci mette, se l'artista ha una tecnica che noi non abbiamo. Non è sempre così, come abbiamo detto prima, no? Le bottiglie di Morandi, davanti a un artista che invece dipinge una bottiglia come se fosse assolutamente vera, con una tecnica assolutamente quasi da Leonardo da Vinci. È meglio quello che la dipinge commettendoci molto di più, o Morandi che magari le sue bottiglie le dipingeva in poche ore? Non è il criterio di quanto uno ci mette, secondo me non è adeguato. Sono anche figurativi del passato che dipingevano velocissimi, erano noti per dipingere velocissimi. Tintoretto si vantava di fare quadri velocissimamente. Io sono andato a vedere, appunto parlando di Picasso, una mostra di Picasso degli anni 50 e, a parte la prolificità dell'uomo, ci sono opere d'arte che fatte probabilmente in poche ore, che però sono eccezionali perché ti danno proprio un'emozione, un'intuizione. Anzi, il grande artista sa anche quando fermarsi nell'opera d'arte, no? Quando capire che l'opera d'arte, a noi piace tantissimo la Pietà Rondanini di Michelangelo, che è quasi incompiuta, no? Sembra abbozzata, infatti. Sembra abbozzata, quindi secondo il criterio del nostro spettatore, la Pietà Rondanini dovrebbe essere un'opera meno valida di una del Davide di Michelangelo. Ma guardi, adesso mi rivolgo proprio al critico. È un po' facile dire aspettiamo il tempo sancirà se opera d'arte. Picasso fu anche tantissimo criticato al suo tempo, dissero nulla aveva a che fare con l'arte, e mi sembra un punto di snodo fondamentale nell'arte contemporanea. Come fa il critico a individuare, a annusare, a percepire l'opera d'arte senza aspettare che sia poi il tempo a proclamarla come tale? Il critico a volte anche sbaglia, il critico anche può sbagliare, anzi l'errore è parte del nostro mestiere, il grossissimo errore sarebbe intanto quello di pensare di aver sempre ragione, no? Si possono prendere anche delle grosse cantonate, perché siamo individui e l'arte di per sé è l'ultimo forse rapporto che rimane fra due individui, l'artista e lo spettatore, in questo caso il critico. Credo che uno abbia un'intuizione di un'opera che magari potrebbe rimanere, perché la può pensare un po' nel futuro, vederla anche in contesti che verranno, e quello forse è un criterio per riuscire. E finora siamo stati, diciamo, buoni, non abbiamo parlato di mercato, non abbiamo parlato di arte pompata, di artisti pompati, di meccanismo artificiale per attribuire valore alle opere. È un discorso molto complicato, molto lungo e molto tecnico, però forse accennare un pochino anche a questa sorta di surrettizio e fittizio sistema che attribuisce all'opera d'arte il suo rango, forse vale la pena. Il mercato è sicuramente un elemento che ha delle influenze sulle opere d'arte. Viene demonizzato e viene visto come una specie di cupola di mafia, perché un po' se noi guardiamo un po' alla fine se noi andiamo a vedere, ritorniamo a Picasso, i Picasso che fanno 100 milioni e quelli che ne fanno 20, sono tutti cifre esorbitanti, però fra quello che c'è di 100 milioni e quello di 20 c'è una differenza anche qualitativa, non è una differenza soltanto mercantile. Ora, ci sono tanti artisti contemporanei che vengono pompati, ma non tanto pompati, il grande collezionista è una persona che è quasi malato, oltre ad avere tanti soldi, è in competizione con quelli che hanno più soldi di lui, quindi per dimostrare di avere più potere è capace di spendere, di andare alla ricerca di un'opera d'arte e portarla alle stelle. Non è che sia tutto organizzato, tutto così. Noi ogni tanto, e particolarmente io ho conosciuto tanti artisti, sono stato artista anch'io, non buono, e quando era artista uno tenta di trovare scuse per capire, per trovare delle ragioni per cui uno non ha successo, e a volte spesso non si ha successo perché non siamo bravi. È così. C'è anche questo da dire, onestamente. Sentiamo Roberto, sentiamo qualche ascoltatore. Roberto. Pronto? Roberto, eccomi. Sì, ecco, sono da Milano. Senta, io volevo raccontarvi una cosa curiosa che mi è avvenuta da giovane, e cioè studiando storia dell'arte come un po' tutti a scuola, mi ero follemente innamorato di De Chirico, perché proprio aveva una pittura che mi sorprendeva, mi emozionava. Mi è capitato poi successivamente di andare a vedere qualche sua mostra e vedendo i quadri dal vivo mi hanno dato una delusione pazzesca. Non so se è il tipo di pennellata o che cosa. Lei pensi che, guardi, io ho avuto esattamente l'impressione opposta. Sono andato a vedere De Chirico al Palazzo delle Esposizioni e sono rimasto commosso, soprattutto da quadri che conoscevo poco, quei quadrettini piccoli fatti nei bagni termali, dei passaggi che al di là De Chirico più celebrato, ma parlo con un'indegnità di competenza totale, lo dico, ho trovato emozione vedere l'opera nella sua rappresentazione reale, concreta, epidermica. Mi ha dato una grande emozione, forse perché De Chirico ce lo immaginiamo grandissimi, enormi quadri, molte volte sono quadri piccolini, anche la dimensione conta molto. Sì, è vero, quindi abbiamo avuto due percorsi opposti, diciamo. Anna Maria, buongiorno. Anna Maria. Buongiorno. Eccomi. Pronto? Sì, la sento un po' in mezzo alla folla, vediamo se riesce a isolarsi acusticamente. Scusi un attimo, sto parcheggiando. Allora, io ho telefonato per l'obbrobrio che è stato creato a Ravello, non so se lei l'ha visto. No. Dunque il famoso auditorium praticamente è un tuffo, è un pugno nello stomaco, perché rovina assolutamente l'armonia del paesaggio sullo sfondo. Adesso, parlando di architettura, non so, io ho sentito anche commenti di sgarbi per quanto riguarda questo mausoleo recente che è stato creato a Roma. Che a me piace il maxi, devo dire, a me è piaciuto molto. Io a dir il vero non l'ho visitato ancora, però se noi parliamo di un'architettura, ovviamente bisogna vedere se è fruibile soprattutto lo spazio interno. In effetti, alla fine noi possiamo dire che un'opera di architettura è un'opera di architettura se ci sono questi tre fattori: struttura, funzione, estetica. Ma vedi, Francesco Bonami, vede che la nostra ascoltatrice riporta sul discorso che abbiamo aperto. È la cornice a questo punto che diventa importantissima rispetto a ciò che conterrà al suo interno. Sì, a volte c'è questo errore. Il Max anche a me piace come architettura, credo sia molto difficile come museo. Sì, beh, era un quartieraccio orribile, fatto di caserme e di case anni 60. Almeno c'è qualcosa che uno va per vedere, per avere gli occhi appagati. Io credo che bisogna sempre ricordare questo. Il signore dice che l'auditorium di Oscar Niemeyer, uno dei più grandi architetti, credo viventi, ora non voglio portare di rogna perché è molto vecchio, ma sia molto brutto, e ho qui davanti le immagini, non è bellissima come cosa. Sicuramente però è un intervento molto interessante. La staticità della realtà è anche una cosa molto pericolosa. Se noi ogni tanto va messa in crisi, se no. Noi abbiamo Roma, abbiamo Venezia, abbiamo Firenze, abbiamo città che sono cresciute e che grazie alla visionarietà dei potenti, di quelli che la governavano, a volte facendo degli errori, a volte no, però noi godiamo di questa trasformazione. Ora, l'auditorium di Ravello può darsi che non piaccia, però è un'opera di un grande architetto, che che forse col tempo uno si abituerà a vedere. E bisogna anche non essere troppo, se lasciamo tutto com'è, noi vivremo ancora sulle palafitte a Venezia, no? Assolutamente. Quindi un po', è come dice lei, il quartieraccio che era prima in fondo lì intorno al Maxi, adesso col Maxi è un quartiere vivo, cioè c'è una... L'arte è anche... un posto di uno squallore terrificante, attraversato da un trenino metropolitana, orribile. Sì, era tristissimo, e adesso invece c'ha una vitalità. Lei prima all'inizio aveva detto, appunto, aveva fatto questa cosa degli eventi sportivi, e nessuno lo sa, perché noi in Italia, se non vediamo le file fuori dalle mostre, le mostre non sono di successo, e quindi non gli vengono più dati soldi all'istituzione che le fa. Però in America i musei sono più visitati degli eventi sportivi. La devo segare, se no non possiamo dare le informazioni del traffico. Melog 2.0. La passione per l'arte contemporanea in particolare non conosce crisi. La famosa casa d'aste Sotheby's mette a segno un'altra vendita record. A New York un ritratto di Andy Warhol, il padre della pop art, è stato battuto per 32 milioni e mezzo di dollari. Si tratta di una delle ultime opere dell'artista americano prima della sua morte. Nella stessa serata un facoltoso collezionista si è portato a casa anche un quadro di Mark Rothko. Il dipinto, conosciuto come opera senza titolo, è stato battuto all'asta per 31,4 milioni di dollari. Venduto anche un Pollock per 8 milioni e 700 mila dollari, un Basquiat e un Bryce Marden. Quest'ultimo è stato acquistato per 9,6 milioni di dollari, nonostante una valutazione superiore ai 10 milioni. Questa è l'altra faccia della luna, quello che diceva Francesco Unami poco fa. Il delirio di onnipotenza, la vertigine di possesso, la sindrome di Stendhal autoalimentata da un forte potere d'acquisto di grandi collezionisti fanno sì che queste opere raggiungano valori stratosferici. In realtà sono tutte opere che ci emozionano. Come facciamo a non emozionarci davanti ai quadri che sono stati citati? Tra i tanti ascoltatori su Facebook, Salvo dice che è un artista. Nell'arte contemporanea non trascuriamo un elemento fondamentale, l'effetto mercato. Il valore che il mercato dell'arte aggiunge all'opera. Anche questo dà enfasi e attenzione all'opera. Poi il metro dato dal mercato aiuta a capire il valore, perché è un filtro temporale. L'artista che supera il passaggio delle mode di mercato ha buone possibilità di essere un grande artista. È vero, ci sono artisti che hanno dei momenti di grande fortuna perché sono proclamati, perché fanno parte, molte volte si appoggiano a delle fasi del potere politico, soprattutto nel nostro paese. Ci sono stati molti artisti di regime, in tutti i regimi, in tutti i momenti, hanno avuto grandi momenti di gloria e probabilmente grandi quotazioni. Oggi le quotazioni probabilmente sono scemate. Io stesso spero di avere presto fortuna per la mia forma di arte concettuale, che è il sollevamento di femmine, su cui farò forse presto una trasmissione. Io sto andando in giro e chiedo a donne per strada: vuoi essere sollevata? Le prendo sulle spalle e mi faccio fotografare. Trovo che sia un momento sublime, ma è una presa in giro, nulla a che fare con l'arte. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Ma io, come ho detto prima, sono un modesto possessore di una galleria a Bologna. Sono convinto che il 90-95% della fama di un artista, fra virgolette, lo possa fare tranquillamente il gallerista. Cioè, col pubblico che c'è adesso, un gallerista può distruggere o innalzare sugli scudi chiunque. Quindi la forza del gallerista dà spessore e carisma all'opera d'arte. Sì, Nicoletti, perché lei per esempio adesso ha detto: chi non si emozionerebbe davanti a un quadro degli artisti che abbiamo appena citato? Beh. Ma chi è che si emoziona veramente davanti a un Pollock, per esempio? Cioè, allora, tra chi fa finta di emozionarsi? Guardi, le do ragione. Chi si emoziona veramente? Sì, sì. Anche Rothko, le do ragione, però esatto. Sono opere talmente note, conosciute e enormi molte volte, ci si mette davanti, è come toccare un pezzo di storia, non ci si può non emozionare. Ma chi fa a conoscere queste opere? Ma non fa parte del percorso dell'artista o delle fattispecie imponderabili che determinano l'opera d'arte anche questo circuito di esposizione? Una domanda, non ho risposta io. Sì, sì, ma ciò non costituisce arte. È il concetto ineffabile di arte legato alla contemporaneità che noi stiamo cercando di toccare, capisce? Siamo in un momento in cui la riproduzione è ossessiva di un concetto dà esistenza a un concetto. Questo potrebbe valere anche per l'opera d'arte. Chiediamolo a Francesco Bonami se questo paradosso in cui ci stiamo dibattendo ha una sua ragione d'essere. Beh, ora io non voglio stare qui a fare la discussione sul fatto che Pollock non è un'opera d'arte. Pollock è stato un grande artista che ha riuscito a dipingere spingere la crisi della pittura. Se uno dice basta, prendo un secchio di vernice, lo tiro su una tela gigantesca, sono morto. Ma non è, non è questo, certo. L'ascoltatore che diceva prima, appunto sulla tecnica e sul tempo, si dimenticava, c'è anche il fatto, quello che io spiego nel mio libro, lo potevo fare anch'io, c'è il fatto che lo potevo fare anch'io, ma l'ha fatto un altro, cioè c'è anche il pensiero. Chi lo fa per primo, certo, è chiaro. Cioè l'idea di come uno... di tentare una cosa, e a volte oggi prendere un rasoio e tagliare una tela non ha più senso. Non ha più senso neanche fare un quadro come Pollock. Ci sono artisti aperti, nel senso che aprono a tante altre strade, artisti chiusi. Pollock e Fontana hanno fatto un gesto che ha marcato la storia dell'arte, però da cui non è uscito più nulla. Perché? Però l'hanno fatto. E l'hanno fatto, insomma, in modo forte. Ora, dire che non è arte Pollock o Rothko, secondo me, è un po' una bestialità, ma non perché uno gli piaccia o non gli piaccia, ma perché secondo me hanno detto qualcosa. Le opere d'arte cambiano anche i gusti, noi cambiano anche i momenti. Ci sono, appunto, come diceva lei, artisti che un tempo erano valutatissimi, poi sono crollati. Se noi facciamo la fila per andare a vedere le mostre degli impressionisti, ma quando c'erano gli impressionisti c'era un signore che si chiamava Meissonier, che era il pittore più famoso, era come Jeff Koons oggi, alla fine dell'Ottocento in Francia, e oggi nessuno farebbe la fila per andare a vedere una grande mostra di Meissonier, no? Quindi, come vede, fa parte comunque dell'essenza che costituisce un'opera d'arte anche la giusta gestione del consenso legato all'epoca in cui si produce. Per quanto rimane questa coda lunga, tanto è eterna l'arte, per quanto questa coda si esaurisce in un periodo storico, è un'arte di tipo lievemente più transeunte. Giacomo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, grazie per avermi chiamato. Io volevo portare un esempio di quello che succede, di come molto spesso l'arte contemporanea viene fraintesa e non trasmette al pubblico le emozioni che realmente l'artista intende trasmettere. Mi è capitato alcuni anni fa, e questo fatto era successo dopo l'episodio di Catalan qui a Milano, dove Catalan, ricordate, aveva... Notate che con pudore abbiamo evitato di nominarlo, sennò avremmo aperto tutta un'altra vicenda. No, ma è successo un episodio simile. È a Palermo, da un artista semisconosciuto tedesco, un nome complicatissimo, non ricordo. Questo artista aveva impiegato mesi, si era trasferito a Palermo, aveva raccolto, si era innamorato di un quartiere chiamato Vucceria, e in particolare di uno stabile molto bloccato. Aveva raccolto, assieme ad altri studenti, mobili rotti, stracci, vecchie cucine, frigoriferi, aveva riempito dei stacchi neri opportunamente, e in una giornata aveva collocato questi oggetti all'interno di questo edificio davanti e dietro. Non ha fatto neanche in tempo a mostrare l'opera d'arte alla città, che la notte sono passati quelli del Lamia e gli è sembrata immondizia e li hanno portata via. Beh, lei pensa che a Roma, dietro Castel Sant'Angelo, in questi giorni c'è un hotel fatto di spazzatura di un noto artista, quello che aveva fatto il Trash People, che per dimostrare siamo una civiltà che va verso il pattume costruisce con la spazzatura. Ci ho anche passato una notte, però tra quello e dire che ho vissuto una notte in un museo, forse un po' ce ne passa. Ringrazio Francesco Bonami, ringrazio quanti hanno telefonato, ringrazio Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.